È uno sguardo intelligente. Cos'è? Per registrare i suoni. Oh, mi date una mano, due mani solo. Beh. Oh, spegnere un attimo la radio. Certo. Aspetta, non registrare, perché bisogna spegnere la radio. Thank you.